I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Nei prossimi giorni, anzi nelle prossime ore, tornerà a crescere l'attenzione sulla legge di stabilità, destinata a fissare la rotta dei conti pubblici nel 2015 e che il Senato prima e la Camera subito dopo dovranno approvare entro Natale. Le questioni aperte sono tantissime, come in qualche modo suggeriscono le oltre 3.800 proposte di modifica presentate dai senatori e che saranno esaminate a partire da oggi. Si va da questioni molto rilevanti come il taglio di 4 miliardi ai bilanci delle regioni e quindi ai possibili effetti sulla sanità pubblica, a questioni di portata sicuramente minore, come per esempio la riduzione dell'IVA sull'origano essiccato. Tra i tanti fronti aperti ce n'è però uno che merita qualche attenzione in più. Con la legge di stabilità, infatti, si aumenta la tassazione che si applica agli investimenti dei fondi pensioni, cioè quelle forme di risparmio previdenziale che molti lavoratori hanno scelto, ben consapevoli che in futuro la pensione pubblica non basterà da sola a garantire un reddito adeguato. La legge di stabilità porta queste tasse dall'11,5 al 20%. Il Senato, è vero, si è impegnato a mettere una pezza e a fermare l'aumento al 16% o al 17%. È una buona intenzione che tuttavia non basta, bisogna fare di più e bisogna lasciare le tasse a livello attuale, che peraltro è già molto più alto rispetto agli altri paesi europei, perché un investimento previdenziale non ha natura speculativa ed è sbagliato penalizzare chi sta giustamente pensando al proprio futuro. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. La borsa balla, i titoli di Stato cadono, grande apprensione c'è sullo stato dell'economia italiana e quello dell'economia europea. In realtà, guardando bene sotto le macerie di questa crisi che non finisce mai, ci si accorge che poi l'Italia è ancora in grado di attrarre investimenti. Due in particolare hanno segnato negli ultimi giorni e hanno sollevato speranze. Quello del Pentagono, che ha deciso di affidare all'Italia la manutenzione delle fusoliere degli F-35, i 9 supercaccia che di qui ai prossimi 40 anni dovranno difendere la NATO, diciamo i paesi della NATO e in generale l'Occidente. E la seconda operazione riguarda, guarda caso, la Germania. Il gruppo Audi, il gruppo automobilistico che è fra i primi tre al mondo, ha deciso di investire un altro miliardo proprio sull'Italia, un paese in cui evidentemente non vende e basta, ma trova anche un terreno fertile per lo sviluppo della propria produzione. L'aspetto interessante qual è? È che accomuna i due aspetti. L'Italia è ancora in grado di esprimere una capacità e una competenza tecnica, periti, ingegneri e meccanici che sono il vero motore degli investimenti esteri. Non è soltanto una questione di burocrazia o di difficoltà italiane nella decisione di investire per le multinazionali, ma è soprattutto la disponibilità di una manodopera qualificata. Se dovessimo perdere questa, il Paese probabilmente perderebbe anche le ultime speranze di saper attrarre capitali esteri, di saper dire qualcosa sui mercati internazionali. Seguici anche in video su rds.it e radio24.it.